Dendi saçın endivitti. Dendi bitti yanın ceram. Esi cera ya durmiyam. Ecco darmi endiviri. L'aeroplano che scoppiava. Però la mafia non esiste, chista è tutta fantasia. No, la mafia non esiste, oggi esiste la mafia. Ai ai ai ai. Non ti vitti, non ti vitti, io non c'ero. E se c'era io dormia, ecco dormi, non ti viri. Ma se c'è qualcuno che viri e lo vuoi raccontare, lo sistema la no ce la lo para. Però la mafia non esiste, chi sta tutta fantasia. No, la mafia non esiste, oggi esiste la mafia. Ai ai ai ai.